Storie italiane. Il giardiniere. A 5 miglia dal trambusto della città di Londra c'era una piccola città, tranquilla, lussureggiante e bella, dove importanti nobili e ministri avevano le loro dimore estive. Questa è la storia della villa più bella di tutte. Bella oltre ogni immaginazione. Il loro giardiniere Larsen curava il prato con la massima precisione. La sua innata passione faceva sì che fiori rari crescessero lungo i sentierini e coprissero i muretti di pietra. Deliziosi frutti crescevano su alberi forti e robusti. E le migliori verdure erano coltivate nel ricco orto. E piante rare adornavano la grande serra. Questa dimora era semplicemente bellissima e i proprietari ne erano orgogliosi. Facevano in modo di visitare la tenuta ogni estate. Che bella tenuta abbiamo! Oh, lo sforzo che dobbiamo fare per mantenerla! Ma vale il duro lavoro. Dopotutto, la proprietà porta il nome della nostra famiglia. Qualunque cosa facciamo è niente rispetto all'onore che la nostra tenuta ci dona. Vostra signoria, signore, benvenuto. Ciao, Larsen. Che cosa hai per noi quest'anno? Signore, mi sto occupando di manghi indiani da oltre 5 anni. Il frutto richiede un particolare tipo di terreno e metodi speciali di irrigazione. Ho trascorso mesi a studiare come coltivarlo, ma... Questo è abbastanza, Larsen. Abbiamo un raccolto? Oh, sì, ecco qui. Ho scelto i migliori per voi. Li ho scelti io. Forma perfetta e dimensioni perfette. Vorrei che ti andassi a lavare, Larsen. Oh, scusate. Stavo raccogliendo questi nuovi ravanelli francesi. Tagliali e vediamo se i mango indiani di Larsen sono buoni. Avresti dovuto tagliarli prima, Larsen. Mi dispiace, signora. Io... Lavati e basta. Sono buoni, signore? Signora? Non sono male. Signore, sua signoria Lord Cornwall è qui per vedervi. Oh, fallo entrare. Sono già dentro, amico mio. Ciao, è bello vederti. Quelli sono manghi indiani? Beh... Sono deliziosi, i migliori che abbia mai mangiato. Quando sei andato in India? Questi non vengono dall'India. Larsen è riuscito a farli crescere proprio qui nella nostra tenuta. Larsen, sei davvero incredibile. Larsen, non avevi del lavoro in giardino? Oh, sì, signora. I miei ravanelli, vi dico... Potresti andare in giardino, Larsen. Ah, ti dico che è così estenuante mantenere una proprietà così. Ah, sono così stanca. Bene, sono qui per invitarvi a un incontro domani sera. Spero che possiate unirvi a noi. Sarà un piacere, Lord Cornwall. Ci saremo. E posso prendere alcuni dei manghi? Larsen è un vero maestro. Non è Larsen, ma piuttosto le benedizioni dei nostri antenati su questa terra. Prendi tutti i manghi che vuoi. Li farò impacchettare subito. La sera seguente, il signore e la signora andarono a casa di Lord Cornwall. Lì, insieme alle deliziose pietanze, vennero servite mele e pere. Davvero le più squisite che gli ospiti avessero mai assaggiato. Davvero, le mele e le pere sono deliziose. Queste vengono dalla tua tenuta? Chi è il tuo giardiniere, Lord Cornwall? Oh, non ho un giardiniere. Ne sto cercando uno. Provengono dal fruttivendolo chiamato John al mercato locale. Ha detto che ha preso tutta la frutta appositamente per stasera. Beh, il fruttivendolo conosce bene la sua frutta, assolutamente esotica. Ci saremmo aspettati tale frutta dal tuo giardino, Lord Maxwell. Lord Maxwell andò a casa molto offeso. Chiedi a Larsen di venire qui immediatamente. Sì, signore. Larsen deve davvero fare un lavoro migliore nel giardino. Mi avete fatto chiamare, vostra signoria? Bene, abbiamo appena assaggiato le mele e le pere più belle e deliziose da Lord Cornwall. Devi andare dal fruttivendolo, un tizio di nome John al mercato locale, e chiedergli dove ha preso la frutta. E poi impara da chiunque sia il contadino come ha fatto a far crescere quella frutta così deliziosa. John dal mercato locale? Bene, gli ho venduto la frutta questa mattina. Ha detto che voleva mele e pere per una serata davvero speciale stasera. Non avevo idea che fosse la serata alla quale siete andati voi. Quindi quelle pere e quelle mele venivano dal nostro giardino? Puoi provarlo? Oh, sì! Ecco il conto della vendita, signore. Avevo provato una combinazione speciale di terreno e letame per rendere i frutti più grandi e più succosi anche. Larsen? Avresti potuto farli assaggiare a noi prima. Ma ve li ho serviti l'ultima volta che eravate qui e avete detto che andavano abbastanza bene. Basta! Ora prendi dell'altra frutta. Invieremo un cestino a tutti i nostri amici e diremo loro che viene dal nostro giardino, dalle benedizioni dei nostri antenati. Davvero, Larsen? Dovresti stare attento a queste cose. Ora procedi. Larsen, fai fatica giorno e notte in giardino. È grazie a te che la tenuta ha il giardino più bello di tutto il paese. E tuttavia non dicono mai parole di elogio per te. L'imballaggio è fatto. Ora posso andare a vedere i fiori di loto blu. Fiori di loto blu? Sì. E non ti preoccupare troppo. Finché mi lasciano fare tutto quello che voglio in giardino, sto bene. La mattina dopo, Lord Maxwell ricevette un messaggio urgente. Il re e la principessa volevano che andasse immediatamente a palazzo per alcuni affari importanti. Che cosa c'è, caro? Il re e la principessa mi chiedono di andare subito a palazzo per affari in Alabama. Dovrei partire subito. Ti aiuterò a fare le valigie. Bene, non dovrei portare un regalo per la principessa? Ma avrai tempo per procurarti qualcosa per lei? La principessa è un'intenditrice di fiori rari. Chiama Larsen! Quindi a Larsen fu chiesto di portare un raro fiore dal giardino e presentò il suo loto blu a Lord Maxwell. Sei sicuro che sia raro? Oh, sì, sua signoria. Si trova solo nelle alte montagne dell'India e del Tibet. Ma io... Basta! L'orso di cocomeri! Cocomeri? Sì, lo chef reale mi ha chiesto di inviare alcuni cocomeri al castello. La famiglia reale ha amato i nostri cocomeri l'anno scorso. Hai delle prove? Oh, ecco la nota che lo chef reale mi ha inviato stamattina, signore. Avresti dovuto farceli assaggiare. L'ho fatto, signore, ma avete detto che erano abbastanza buoni. L'estate scorsa il raccolto del giardiniere reale è andato male, quindi me ne ha chiesti alcuni da portare allo chef e alla famiglia reale. Ora non confondere tutto. Adesso devi partire, caro. Ciao, cara. Metti i cocomeri sulla carrozza. Lord Maxwell diede il fiore alla principessa e lei ne fu felice. Mise il fiore nel vaso di cristallo proprio al centro del tavolo da riunione. Ma un cortigiano geloso osservò Lord Maxwell. Il fiore che hai regalato alla principessa è abbastanza comune. Non è vero? Non deve lasciarsi ingannare dall'orso di questo modo, Lord Maxwell. C'è un giardiniere che conosco che è molto meglio di l'orso. Dovrebbe proprio assumerlo. Lord Maxwell si arrabbiò molto nel sentir ciò che aveva detto il cortigiano. Tornò alla sua villa per licenziare Larsen. Quando raggiunse la villa, la Larsen era in giardino a parlare con Lady Maxwell. Larsen? Per favore, lasciatemi abbattere questi vecchi alberi morti. Farò crescere una macchia di avena qui e molti uccelli arriveranno nel giardino per mangiare. E il giardino sarà pieno dei loro cinguettii felici e si animerà con i loro colori vivaci. Quegli alberi sono lì da sempre, Larsen. Da prima che tu venissi qui. Non li toccherai. Ma signore, ho pensato... Non dimenticare, Larsen, che questo giardino appartiene alla nostra famiglia. Come osi decidere come tenerlo? Mi dispiace, signore. Non starai più qui. Il buon cortigiano ci manderà un altro giardiniere e i tuoi servizi non saranno più richiesti. Signore! Mi hai dato un fiore comune da regalare alla principessa, chiamandolo raro? Ora dovrò scriverle una lettera per scusarmi. Ma, signore... Non farmi ripetere. Vai! Quindi Larsen dovette lasciare la villa e il suo meraviglioso giardino che aveva curato con tanto amore e pazienza per così tanti anni. Nel frattempo, Lord Maxwell scrisse una lettera di scusa alla principessa. Vostra Altezza, mi dispiace profondamente informarvi che il loto blu che vi avevo donato durante la mia recente visita al palazzo non era raro come mi era stato detto. Mi scuso per la svista e spero che mi perdonerete e capirete che non avevo intenzione di mentire così davanti a voi. Cordiali saluti. Lord Maxwell. Caro Lord Maxwell, so che il fiore che mi avete donato era davvero raro. Anche se era comune in India e in Tibet, è raro nella nostra parte del mondo ed è davvero incredibile che il tuo giardiniere Larsen sia riuscito a coltivarlo nel nostro clima. Per questo deve essere lodato. Ho sentito così tanto parlare della tua tenuta e del giardino di Larsen che mi piacerebbe davvero farsi visita. Dato che è ormai tardi, quest'anno, propongo di farvi visita l'estate prossima, se non vi disturba in alcun modo. Cordiali saluti, Principessa Flora. Grandi preparativi vennero fatti per la visita della principessa. Furono presi nuovi semi, acquistati nuovi fiori, tutto con il nuovo giardiniere. Perché i Maxwell non l'avevano mai considerato il giardino di Larsen. Era sempre stato loro e soltanto loro. Nel frattempo, Larsen aveva trovato dove vivere da Lord Cornwall e stava facendo le sue magie nel giardino di Lord Cornwall. Passò un anno e di nuovo era di nuovo estate e i Maxwell attendevano la visita della principessa. La principessa raggiunse la cittadina. Fermo! Cocchiere, fermo! Una macchia di avena sulla quale gli uccelli possono nutrirsi. Solo Larsen avrebbe potuto pensarci. Questo deve essere il posto giusto. Vostra Altezza, sono abbastanza sicuro che la proprietà di Lord Maxwell sia un po' più avanti. E io sono sicura che questa deve essere la proprietà. Questo deve essere il giardino più bello di tutto il paese. Può essere solo il lavoro del buon Larsen. Larsen, sei tu? Sì. Sono la principessa Flora. Principessa, mi dispiace così tanto, signora. Devo andare a lavarmi. Questo dimostra solo con quanta passione fai il tuo lavoro. Hai i miei cocomeri preferiti? Sì, li vado a prendere subito. Nel frattempo, il cocchiere aveva inviato un messaggio a Lord Maxwell, dicendo che la principessa era arrivata. Si precipitarono nella tenuta di Lord Cornwall. Principessa Flora, Vostra Altezza, la nostra tenuta è un po' più su per la collina. Davvero? Ma Larsen è qui? Poi la principessa Flora fu informata di come Larsen era stato costretto a partire dopo aver donato un fiore comune alla principessa. La principessa Flora ascoltò. Era abbastanza saggia da rendersi conto che l'egoista Maxwell non aveva mai apprezzato Larsen per il suo grande talento e l'amore per il giardinaggio. Decise di rimediare. Larsen, sei un giardiniere straordinariamente talentuoso e appassionato e ti do un giardino e una dimora tutta tua, dove potrai fare tutto il giardinaggio che desideri, in qualsiasi modo tu voglia, e verrai pagato con l'oro della famiglia reale. Tutti coloro che vedranno il tuo giardino dovranno chiamarlo il paradiso di Larsen, ed è così che dovrà essere conosciuto in tutto il paese. Alla fine, Larsen ottenne l'apprezzamento che meritava.